4 mattino. Scelte perfette, questa volta devo condividere che hanno scelto le cose più giuste. Cosa serve la scuola, 5 giorni e poi le vacanze? Beh, riguardo la questione del ristoratore di Modena, è sempre una questione di buonsenso. Magari il ristoratore può stare pure aperto, però poi sta a me decidere se andare o no. E se magari io credo che il buonsenso sia quello di non andarci, e il ristoratore di Modena, se tanti la pensano come me, non lavorerà. Che dobbiamo fare? A chi ha tutta questa voglia di cucinare per Sant'Ambrose e per Natale, invito a fare un bel box dove mettere tutte le vostre leccornie e portarle nelle portinerie degli ospedali da consegnare a medici, infermieri, OSS e tutti gli altri operatori sanitari e le donne delle pulizie, così magari durante la pausa pranzo riusciranno a mangiare. Ale. Va bene, sulla scuola dibattito aperto, che continua ad essere aperto, appunto c'era questa ipotesi di riapertura il 9 di dicembre, a un paio di settimane dall'inizio delle vacanze di Natale, forse, dico io, si poteva pensare, che è quello che sosteniamo sempre da queste parti, a un po' di didattica mista. Quello che dico, magari non mandare i ragazzi alle superiori 5 giorni a settimana o 6 giorni a settimana per chi fa i 6 giorni a scuola, ma magari fare un giorno, 2 giorni a settimana di didattica in presenza, magari alternati, sarebbe stato utile. Però così è, e probabilmente andremo al 7 di gennaio. La realtà è che probabilmente andremo all'11 gennaio, che è il lunedì successivo. Però così è, dopo l'incontro di ieri tra il governo, i comuni e le regioni. Sul fronte al ristoratore, cara ascoltatrice, io non sono d'accordo, perché se ci basiamo sul buonsenso, può essere legittimamente che io con grande buonsenso decida che non è rischioso per me andare al ristorante, però se ci vanno altre 100 persone, poi il buonsenso, cioè, finisce, la questione del buonsenso finisce naturalmente. E vabbè, e poi Sant'Ambrogio, il ponte dell'Otto, che tra l'altro si potrebbe allungare, lo ricordiamo sempre, perché è proclamato uno sciopero degli statali per il 9 di dicembre, quindi potrebbe essere tutto un po' più lungo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS, i messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, come sempre. Siamo anche in diretta su Facebook per questa seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 27 novembre, al microfono sempre Simone Spezia, e iniziamo con un'occhiata, come sempre, alle prime pagine, ai titoli principali. La Stampa apre sul fondo salva stati, sì alla riforma, no agli aiuti. C'è un'intesa tra il Movimento 5 Stelle e il ministro Gualtieri, appunto, sulla riforma del fondo salva stati, e però il Movimento 5 Stelle continua a dire no allo stesso fondo salva stati, cioè sì alla riforma ma no al fondo. Il Fatto Quotidiano se la prende con le regioni, piste di sci aperte e scuole chiuse, queste sono le richieste che sono arrivate dalle regioni. Altri quotidiani si dedicano a questo, il Corriere della Sera, scuole sci stop fino a gennaio, scuole si riapre dopo la Befana, titola il Messaggero, altri invece si occupano di quello che è successo ieri dal punto di vista politico, ossia il voto del centrodestra unito allo scostamento di bilancio che era stato proposto dalla maggioranza. Tattica a distanza, il titolo del Manifesto. A Conte l'aiuto della destra, il titolo della Repubblica. Il Giornale parla di tregua fiscale, Berlusconi convince gli alleati, votiamo con Conte per meno tasse. E Libero invece la mette così, verso l'ammucchiata, centrodestra e giallorossi uniti per votare in Parlamento l'aumento del debito pubblico, non c'è da festeggiare, i soldi aiuteranno poco i lavoratori ma garantiranno gli sprechi. La Verità parla di un Conte preso a palle di neve dall'Unione Europea, perché da giorni Giuseppi, così scrive il quotidiano, invoca misure comuni sugli impianti sciistici, la Commissione dice scelte dai singoli paesi. Il Sole 24 Ore ci fa notare che c'è attesa per il super bonus, e questa attesa per sapere se sarà prorogato e questa attesa per il super bonus frena l'edilizia. Sole 24 Ore che si dedica anche alla questione dei versamenti fiscali. La proroga al 30 aprile, come già vi dicevo prima, arriverà all'ultima ora. Faremo un passaggio su questo adesso anche in rassegna stampa. Infine Avvenire parla di fede imprigionata. Nel mondo ogni giorno 10 cristiani finiscono in cella soltanto per il loro credo. Partiamo come sempre da qualcosa di diverso. Sta facendo molto discutere questa scelta di Rosanna Rovere, o riflettere, per meglio dire, più che discutere, riflettere, questa scelta di Rosanna Rovere. Chi è Rosanna Rovere? Rosanna Rovere è un avvocato di Pordenone ed è la donna che ha rifiutato di difendere Giuseppe Forciniti, infermiere di 33 anni che ha ucciso Aurelia Laurenti, 32 anni, sua moglie. Dormivano, i figli dormivano, non si sono accorti di nulla, mentre il padre la uccideva con almeno 8 fendenti. Ha provato a raccontare di una colluttazione con un ladro e poi alla fine ha confessato. Ebbene, Rosanna Rovere era stata nominata difensore di quest'uomo e racconta così: nel 2017 era infermiere nella RSA di Roveredo in Piano, dove era ricoverata mia mamma. Per lei era un mito, una splendida persona. Che gli ha detto? Giuseppe, cosa mi combini? Mi è venuto spontaneo, aveva i miei riferimenti, era stato così premuroso con mia madre che mi fidai. Gli ho chiesto perché non era venuto da me, a tutto c'è rimedio, ho aggiunto, ma non a queste cose. Poi vi siete parlati? Sì, dell'accaduto. E dopo? Giuseppe, non me la sento. Avvocato, non mi può abbandonare. L'indagato mi conosceva e aveva indicato me quando gli era stato chiesto che dovesse patrocinare la sua difesa, ma non ho potuto accettare l'incarico. Non posso assumere le difese di quest'uomo dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne. L'intervista di Henry Lisetto a pagina 17 della Stampa e racconta anche di una casella di posta elettronica di Rosanna Rovere piena di messaggi da amici sconosciuti: grazie per aver rinunciato a questa difesa. Avvocato, anche se non la conosco, vorrei ringraziarla per il suo gesto coraggioso. La Stampa pubblica anche un commento di Anna Maria Bernardini De Pace che mette in evidenza la difficoltà per un avvocato di fare una scelta di questo genere. Dice: non so se chiunque potrà considerare giusta una decisione come questa. Non lo so, perché anche io a suo tempo ho preso la stessa decisione e ancora oggi, dopo oltre 35 anni, non ho capito se deontologicamente la mia posizione fosse giusta. Sono stata in carcere con il PM che stava indagando appunto su quest'uomo, su questo presunto assassino, e poi l'ho interrogato da sola senza magistrato per oltre un'ora, anche se dopo 10 minuti ero assolutamente convinta, malgrado la sua negazione disperata, che avesse ucciso crudelmente e volutamente. Quella sera di ritorno dal carcere ha totalmente cambiato la mia vita, facendomi poi diventare quella che sono oggi, anche se i problemi di coscienza ci sono lo stesso. E a 35 anni di distanza, dice un avvocato di grido come Anna Maria Bernardini De Pace, non ho ancora capito se ho fatto male a rinunciare a quella difesa oppure no. Oh, a proposito di donne, a pagina 12 di Libero troviamo un pezzo di Brunella Bolloli che ci racconta, lo ricorderete, forse lo ricorderete, Giuseppe Maurizio Fossati, ex allenatore della Novese Calcio, deferito per omofobia e stalking in attesa di presentarsi davanti alla commissione disciplinare della FIGC. È stato accusato dalle sue giocatrici di frasi come «sei grassa come un maiale, ma non ti vedi?» La minaccia di raccontare ai genitori che siete lesbiche. Ebbene, Giuseppe Maurizio Fossati è diventato opinionista per la serie A della Serie A femminile per il giornale online calciodonne.it, per giunta senza che il direttore della testata ne fosse al corrente, racconta oggi Libero. Tutto questo per volere di Walter Pettinati, fondatore ed editore di calciodonne.it, che ha spiegato di aver scelto Fossati per la sua preparazione e la sua serietà. E visto che siamo sul calcio, fatemi chiudere questo passaggio di rassegna stampa, non tanto su ancora, i giornali sono ancora pieni, zeppi di pagine su Maradona, anche ragazzi, è stato un'icona, un fenomeno pop mondiale, non solamente un calciatore, lo sappiamo, ma anche basta, in tutta sincerità. Ci sono, sì, certamente i racconti degli scontri ieri alla Casa Rosada, ci sono i racconti di quello che è successo a Napoli, delle celebrazioni che ci sono state a Napoli, per carità. Però vi voglio portare su un altro punto, perché molti di voi ieri hanno scritto qua in trasmissione, quando abbiamo parlato di Maradona, dicendo piantatela di celebrare, perché è stato un evasore fiscale, uno che ha sottratto 40 milioni di euro al fisco. Ebbene, oggi Luciano Capone sul Foglio ci spiega che non è così, non è così, una volta per tutte, così lo spieghiamo, con un buon pezzo di Luciano Capone, appunto. La vita sregolata, la cocaina, l'alcol, le frequentazioni con i camorristi del Clan Giuliano, l'amicizia con dittatori autocrati come Fidel Castro e Hugo Chavez, passando per Mahmoud Ahmadinejad, ma non l'evasione fiscale. Di tutte le storie su vizi e errori della leggenda del calcio appena scomparsa, ce n'è una che è davvero una leggenda. Diego Armando Maradona era un evasore fiscale, perché tutti ricordano i blitz all'aeroporto con sequestro di Rolex e orecchini, i finanzieri alle calcagna e via dicendo. Ma in realtà Maradona era sostanzialmente innocente, o meglio, era colpevole di non essere stato in grado di difendersi, come invece hanno fatto i compagni di squadra vittime di identiche contestazioni, Alemão, Careca e la società sportiva Calcio Napoli, che hanno ottenuto l'annullamento delle pretese dell'erario. E perché Maradona non è riuscito ad annullare le pretese dell'erario? Il campione fuggì da Napoli il 1 aprile del 91, giorno di Pasquetta, dopo essere risultato positivo all'antidoping. L'accertamento tributario arrivò alla sua casa in via Scipione Capece mesi dopo, il 29 ottobre, ma Maradona, si legge nella notifica, risultava sloggiato e sconosciuto. Non essendone a conoscenza, non ha potuto impugnare l'accertamento, né dopo le assoluzioni di Careca, Alemão e del Napoli di Corrado Ferlaino. Per lui è stato possibile fare ricorso perché i termini erano scaduti. Così il giudizio è diventato definitivo, insieme al marchio infame di evasore che lo ha perseguitato per anni tenendolo lontano dall'Italia. L'evasione fiscale di Maradona è una storia che non parla dell'eticità e della sregolatezza del PIB e d'oro, ma di quella del fisco italiano. Fisco italiano sul quale torneremo dopo la pausa. Mattino. La Lombardia ha i requisiti per diventare arancione, malgrado tutto si pensa a mantenerla rossa. Ora, a prescindere da tutto il resto e dalle considerazioni che possono essere personali, ma non erano dei parametri numerici a cui attenersi per avere oggettività e uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale? Adesso invece viene reintrodotta la discrezionalità in questo ambito, c'è qualcosa che non mi è chiaro. Sì, continuate pure a dare la colpa a ristoratori, ristoranti, bar, pub, sì, continuate pure a dare la colpa a loro lì. Sono sempre rimasti aperti e non sono stati fonte di contagio. Mentre se guardiamo la curva epidemica è partita da la prima metà di ottobre. Quindi, la colpa è solamente dei trasporti pubblici della riapertura delle scuole. Vabbè, dai, mettiamoci pure lo scontro tra ristoratori, baristi e scuole. Dai, su. Mettiamoci pure questa. Io veramente non... Vabbè, per quanto riguarda la questione della Lombardia, sì, siamo perfettamente d'accordo, dovrebbero essere parametri oggettivi, però parliamoci chiaro, non sappiamo ancora che cosa succederà oggi, quali saranno le decisioni e, devo dire la verità, non abbiamo nemmeno molta chiarezza su come funziona questo algoritmo che tiene dentro i 21 indicatori. Vi avevo promesso che avremmo parlato di fisco subito dopo la pausa ed eccoci qua. Perché? Perché rischia di succedere quello, anzi succederà sicuramente quello che è successo l'altra volta, ossia che il rinvio del pagamento delle tasse arriva quando le tasse già bisogna pagarle praticamente. con il risultato prevedibile che molte persone saranno, come si dice in gergo fiscale, compliant immediatamente, ossia avranno, di fatto le pagheranno nei tempi giusti, e altri invece aspetteranno. Prendete questo pezzo sul Sole 24 Ore a pagina 2 di Marco Mobili e Gianni Trovati, i quali ci raccontano che rischiano di allungarsi ancora i tempi di cottura del decreto Ristori Quater, che potrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri non prima di sabato, o addirittura domenica, come fatto filtrare ieri dalla maggioranza. L'obiettivo è quello di mandare in gazzetta il testo la sera stessa, un obiettivo dovuto, perché il cuore del provvedimento è nelle sospensioni dei pagamenti delle tasse che slitterebbero al 30 aprile. E la prima scadenza relativa agli acconti di IRPEF, IRES e IRAP è in calendario per lunedì 30 novembre, quindi lunedì prossimo, fra due giorni. Che cosa dobbiamo fare? Ce lo dica il governo, ce lo dica l'Agenzia delle Entrate. Il decreto quel giorno dovrebbe fermare 1,7 miliardi dovuti da partite IVA e imprese che abbiano subito una perdita di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per sapere se si ha diritto allo stop, quindi occorre un ricalcolo dei dati o comunque un esame delle semestrali. Il passaggio non è quindi così automatico e c'è il rischio concreto che in molti studi professionali, dove l'attività segue la gazzetta ufficiale, non gli annunci della politica, non ci sia il tempo per aggiornare i software, gestire i calcoli e fermare gli ordini di pagamento preparati in queste settimane. Come capite, non è proprio il massimo. Molto sui giornali trovate, così iniziamo ad addentrarci nelle questioni politiche, molto trovate sui giornali sulla vicenda Casaleggio. Mea culpa, ieri mi sono perso il Riformista che aveva questa sorta di bomba, il punto è questo: la Casaleggio e associati ha ricevuto quasi 2 milioni di euro, in tutto con l'IVA sono 2 milioni e 380 mila euro negli anni, a partire dal 2017 per arrivare fino all'ottobre 2020, da una multinazionale del tabacco. Si tratta di Philip Morris. E in questo stesso periodo di tempo sono calate le accise sul cosiddetto tabacco bruciato. Cos'è il tabacco bruciato? Sono quei prodotti che ormai tutti avrete visto e che ben conoscete, che non sono sigarette ma è un piccolo oggettino nel quale inserisci appunto una sigaretta, un pezzo di tabacco e aspiri da là la nicotina. E quindi l'accusa ieri del Riformista era l'onestà è andata in fumo. Ci tornano molti giornali nella giornata di oggi, ma il Riformista ci torna con un altro elemento ulteriore. Di Maio era al corrente dei soldi della Philip Morris? E questo è un altro punto interessante. Scrive Nicola Biondo appunto sul Riformista. L'aggancio tra Philip Morris e i 5 Stelle avviene all'inizio dell'estate del 2017, quando Luigi Di Maio viene invitato da Utopia, una nota agenzia di pubbliche relazioni, a incontrare Philip Morris e altre grandi aziende. Utopia ha come Casaleggio tra i suoi clienti proprio la multinazionale del tabacco, con la quale ha un contratto da gennaio 2017 per oltre 800.000 euro. 60 giorni dopo quell'incontro tra Di Maio e Philip Morris, Casaleggio Associati firma una consulenza che ad oggi appunto ammonta 2.379.000 euro. E dunque si chiede il Riformista: Luigi Di Maio è stato un facilitatore di questo accordo? La domanda resta sospesa. Nel frattempo Casaleggio ha risposto ieri, ha detto insomma, molto chiaramente che la Casaleggio Associati non ha attività di governo, quindi non può intervenire direttamente sui provvedimenti, però la questione resta e resta là. Così come La Verità ne solleva un'altra a proposito di Movimento 5 Stelle sulla ministra all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, Paola Pisano. Perché? Perché ieri, nei giorni scorsi, racconta Camilla Conti, a pagina 13 ha presenziato alla presentazione di una sorta di autostrada digitale che collega l'ospedale Gaslini di Genova alla velocità di 10 gigabyte, permettendo di aprire nuove frontiere nel campo della telemedicina. È il progetto ospedale diffuso e altamente connesso. La presentazione appunto è stata fatta dall'amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa e dall'amministratore delegato di Fibering Spa Elio Romagnoli. Fatto sta che il presidente, adesso ci arriviamo, presidente della società specializzata nel fornire la connettività dati e voce alle aziende, ossia questa Fibering, è Enrico Toledo, che è il cognato della ministra, la quale ministra, racconta Camilla Conte in questo pezzo, sarebbe pronta, dopo l'addio di Chiara Appendino, a candidarsi a sindaco di Torino. E visto che siamo sulle candidature, c'è il Messaggero che ci racconta, pagina 12, che per il Campidoglio il PD e il Movimento 5 Stelle hanno avuto l'idea. Pierpaolo Sileri. Il vice ministro alla salute, racconta il quotidiano in un pezzo di Mario Aiello, potrebbe essere la scelta di PD e Movimento 5 Stelle per la candidatura a Roma. Lui dice: non ne so nulla, e aggiunge Pierpaolo Sileri, vice ministro alla salute, sono un 5 Stelle e voterò per la Raggi perché so quel che sta facendo. Ma al di là delle dichiarazioni ufficiali, una trama che riguarda Sileri è in corso e potrebbe sfociare, se arriva a conclusione, in un clamoroso duello per il Campidoglio tra un medico, lui in chiave rosso gialla, e un altro medico, Guido Bertolaso, per il centrodestra. Sarebbe una sfida adattissima al momento che attraversiamo, quello del Covid, e si spera del post-Covid, e della distribuzione del vaccino. Cosma e Damiano, i protettori dei medici, cui è intitolata una delle più belle basiliche di Roma, ma che non diventarono sindaci, ovviamente. Massanti, scrive Mario Aiello. Il traffico. Quattro mattino. Hanno tutti fretta ad aprire, hanno tutti fretta di andare, cioè, siamo in pandemia, il vaccino deve ancora uscire, cioè, forse non ci siamo ancora resi conto della situazione. La cosa che veramente mi lascia basito è che siamo così stronzi noi italiani che deve essere il governo a chiuderci i confini per non farci andare a sciare oltre Alpe, diciamo, mettendo a rischio la nostra salute e quella degli altri. Prendete i nomi a chi va a sciare, poi se si ammalano e finiscono in ospedale, il conto glielo presentate. Ed ecco qua, visto che ci avete introdotto con i vostri WhatsApp audio alla questione pandemica, direi che l'intervista del giorno, perché per quello che dice farà discutere decisamente, è quella a Paola De Micheli. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti parla con Repubblica e a pagina 7 dice una serie di cose. Innanzitutto, che nessuno le ha portato, racconta, dice a Corrado Zunino, nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio in questo periodo, poiché la politica però non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini. Vi dico che le regioni hanno messo a disposizione quasi 10.000 bus aggiuntivi in tutto il paese con le risorse assegnate dal governo. Sono pronti a scendere in strada, alcune città hanno già codificato le corse in più da fare. E poi ci dà una serie di notizie e dice due cose che, ripeto, faranno, direi, discutere. Allora, la notizia è questa. Siamo tornati alla capienza del 50% sui trasporti e dobbiamo restarci almeno fino all'estate. Questa scadenza non l'aveva data ancora nessuno e quindi arriviamo a luglio con la capienza al 50% per i mezzi pubblici. E qua bisognerà appunto ragionare, approntare un piano se si vogliono riaprire le scuole. E poi la questione degli ingressi sfalsati e delle lezioni. Gli ingressi sfalsati al momento sono dalle 8 alle 9. Largamente insufficienti, dice De Micheli. Tra le 7 e le 9 di ogni mattina la metropolitana e gli autobus sono pieni, per poi viaggiare semivuoti dopo le 9 e 15. Dobbiamo spalmare l'entrata e l'uscita degli studenti sulle prime 12 ore della giornata. dalle 8 alle 20. E quindi cosa sta ipotizzando De Micheli? Che alcuni studenti iniziano le lezioni alle 15, tanto per dare un'idea, per poi finire alle 20. Significa che alcune classi potranno fare ingresso alle 11 a mezzogiorno per lasciare scuola all'ora di cena. Lo dicono le aziende di trasporto. È inutile inviare 5 bus ogni 5 minuti tra le 7 e le 7:25 se l'orario d'ingresso per tutti è quello delle 8. Gli studenti si ammassano sulle ultime due corse, le 7:20 e le 7:25, per arrivare a scuola 10 minuti prima della campanella, non mezz'ora prima. E ancora. Credo che sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato. Bisogna battere il tabù della domenica, gli chiede Zunino. Sono decisioni che vanno condivise con tutto il governo, ma dicevamo, siamo in emergenza e bisogna far cadere ogni tabù. Ce lo chiedono diverse regioni. Anche gli orari delle attività produttive dovranno essere cambiati, cadenzati. E quindi, propone Paola De Micheli, in classe anche sabato e domenica, anche con più bus e il pomeriggio, anche con più autobus. Ebbene, dice De Micheli, tutto questo non basta. C'è un grande capitolo politico, come ben sapete, e come vi abbiamo raccontato prima. E questo capitolo politico è il voto di ieri unanime del Parlamento, con anche il centrodestra, allo scostamento di bilancio, che apparentemente apre delle nuove prospettive per la stessa maggioranza. Il Partito Democratico viene descritto da tutti i giornali come molto irritato per una mossa che Conte considera a sé favorevole. Altri giornali ritengono invece che questa situazione possa invece sfavorire Conte e condurre a una sorta di governo di unità nazionale. Come capite, è un po' tutto in ballo. Fatto sta che su questo fronte vi direi che l'intervista di giornata è quella a Matteo Salvini, leader della Lega, al Corriere della Sera, a pagina 11, il quale dice questo: il tentativo del Partito Democratico è chiaro da mesi, vuole scegliersi un pezzo dell'opposizione col quale lavorare, ma il centrodestra non è a disposizione di nessuno. Siamo maggioranza nel paese e governiamo 14 regioni su 20. Si rasserenino tutti, io sono contento perché bado alla sostanza. Se il centrodestra fosse andato in ordine sparso non avrebbe incassato alcun successo. La lettura corrente è che il sì della vostra alleanza allo scostamento sia arrivato grazie a Silvio Berlusconi. Altri si vogliono prendere i meriti? Ma guardi che a me non interessano primati, non mi interessa ricordare che siamo il primo partito e via dicendo. Al voto di ieri siamo arrivati tutti insieme, dico ai Dem che dovrebbero mettersi l'anima in pace. Su che cosa? Sull'elezione del Presidente della Repubblica. Come capite, la partita è anche quella. E torna a chiedere Salvini, a ipotizzare un gruppo unico in Parlamento, una federazione, un gruppo unico, quello che è la vera risposta, dice, a chi vuole dividerci. Ma come ormai saprete, chi è un po' più attento alla politica sa che già Silvio Berlusconi gli ha già detto che di questo non se ne parla. Apriamo anche un capitolo Giulio Regeni, sì, direi di sì, perché ci sono un po' di notizie che troviamo sui quotidiani e che si collegano, direi, a questo punto, perché molto se ne è parlato nei mesi scorsi, poi la cosa è finita sotto traccia, non la vicenda di Giulio Regeni, e parlo delle fregate vendute all'Egitto. Ci si torna adesso, Racconta La Stampa, pagina 14, con Mariano Alberto Vignali, che la maxi commessa militare è andata in porto. Sta arrivando la prima fregata italiana per Al-Sisi, si chiama Al-Galala, l'ormai ex fregata Spartaco Shergat, costruita per la Marina Militare e poi dirottata all'interno della maxi commessa di armamenti che l'Italia sta vendendo all'Egitto. In nome della medaglia d'oro che sino a poco tempo fa correva sulla murata di poppa è stato appena sostituito e l'unità è pronta a cambiare il tricolore con la bandiera con l'aquila di Saladino. La notizia del cambio di nome sulla fiancata è la prova regina, a discapito di tanti silenzi e delle mezze imbarazzanti conferme arrivate in questi mesi dal governo, che ormai quella fregata è egiziana. Alla Spezia c'è anche l'equipaggio che sta finendo la formazione per poter salire a bordo e far rotta verso il Mediterraneo orientale. Come ben sapete, questa vicenda è stata collegata da alcuni a doppio filo alla vicenda di Giulio Regeni, la quale vede delle novità in arrivo, perché a pagina 21 Repubblica con Giuliano Foschini ci racconta dei nuovi testimoni testimoni che hanno raccontato di aver visto il ricercatore dell'Università di Cambridge entrare scortato dagli agenti della National Security egiziana, il servizio segreto civile egiziano, e portato in almeno due caserme dove è stato picchiato e torturato. La procura di Roma ne è certa, racconta Giuliano Foschini, perché qualcuno gliel'ha raccontato, e la vicenda si riapre con questi due elementi sullo sfondo. Prima di chiudere, fatevi dire che, a proposito di rassegna stampa, è che oggi arriva il secondo episodio delle interpretazioni d'autore del mensile del Sole 24 Ore, Il, e che oggi ci sarà, in occasione del nuovo numero, un grande evento digitale online. Si chiama Restart, riavvia la cultura, è una proposta concreta da cui partire per poter ricostruire, appena finita la pandemia, il rilancio di cinema, teatro, arte e cultura. Sono una quindicina di interviste. A questo appuntamento partecipa anche Radio 24, e vi diamo un elemento audio. Francesco Scianna che recita una poesia di Salvatore Quasimodo come augurio per una ripartenza, come speranza per il futuro. Poi il GR, ci risentiamo dopo con Paolo Mieli. Ed ecco sul tronco si rompono le gemme, un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa. Il tronco pareva già morto, piegato sul botro, e tutto mi sa di miracolo. E sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza che pure stanotte non c'era.